Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. I know it's not mine, but I'll see if I can use it for the weekend or a one-night stand. Couldn't understand. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi voglio parlarvi di un grande progetto che è frutto dell'unione di un importante istituto di ricerche, il Mario Negri di Milano, e di una prestigiosa università, l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Si chiama Italian Institute for Planetary Health. È un istituto di respiro internazionale che ha lo scopo di salvaguardare la salute dell'uomo mantenendo in buona salute anche il nostro pianeta. Con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Remuzzi, che è direttore del Mario Negri di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma che bella questa cosa, un progetto straordinario. Beh, un progetto che vorrebbe mettere l'Italia al centro del mondo e trasformarla in un laboratorio per sperimentare il fatto che si possa mangiare bene, mangiare in modo corretto, e migliorare anche insieme alla nostra salute del pianeta. Forse non sanno tutti che il mangiare in modo inadeguato uccide più persone di quanto non facciano le droghe, il tabacco, l'alcol e le cattive abitudini sessuali messe insieme. Non solo, ma il 30-40% dei tumori potrebbero essere prevenuti se noi avessimo dei buoni stili alimentari. La migliore alimentazione per quanto riguarda l'Europa è stata inventata in Grecia, è quella che tutti chiamiamo dieta mediterranea, e sostanzialmente è basata in mangiare poca carne rossa, non niente, perché non c'è niente che fa male in senso assoluto, come non c'è niente che fa bene in senso assoluto, è una questione di equilibrio, di varietà e di quantità. E questa dieta mediterranea basata molto su vegetali e frutta, come tutti sappiamo, e una importante introduzione di grassi sotto forma di olio d'oliva. Questa dieta che è stata inventata in Grecia, dove è stato visto da una straordinaria ricercatrice in 22.000 adulti che c'è riduzione di malattie del cuore e del cancro e della mortalità totale se uno si attiene almeno in parte a questa dieta, e non è applicabile dappertutto. E però lo sforzo di questo istituto è quello di andare a vedere che cosa possono mangiare quelli a cui non si può proporre la dieta mediterranea. È una questione anche di gusto, di sensibilità, di tradizioni. Pensate che ci sono degli indigeni precolombiani, del Messico precolombiano, che mangiavano dei cibi particolari, erbe, soprattutto legumi, papaya, certi frutti tropicali, e quelli avevano, corretto per il tempo e per l'età, una vita molto migliore, si ammalavano molto meno. Poi ci sono le diete dell'India, del Corno d'Africa. Pensate che in certi posti dell'Amazzonia, per esempio, le persone invecchiano senza avere la pressione alta. Noi abbiamo sempre pensato che la pressione alta fosse una conseguenza degli anni. Degli anni, invece, invecchiano con la pressione normale. Questo vuol dire che non è l'età, ma è l'ambiente. Lì ci sono dei frutti, delle palme, per esempio. Questi frutti li hanno studiati, ma noi li vorremmo studiare di più. Infatti il vostro istituto, professore, vuole proprio promuovere la ricerca scientifica per andare ad identificare con precisione quegli alimenti che hanno un impatto maggiore sulla salute e sulla longevità di ogni singolo individuo. Esatto, vogliamo dare una base scientifica alle cose che si dicono, che si pensano. In questi frutti, acai si chiama uno, dell'Amazzonia, ci sono dei piccoli studi che dicono che protegge il cuore, che ha delle proprietà anticancro, che migliora la funzione del cervello, persino del tratto gastrointestinale, però vogliamo capire perché, e questo dipende dai nostri geni, per esempio, perché non tutti sono capaci di prendere vantaggio da certe qualità degli alimenti. Per esempio, io manco di un gene che è importante per trarre vantaggio dall'effetto cardioprotettivo del vino rosso, quindi quel gene lì è indispensabile, se no tu prendi il vino rosso ma non ti fa niente di bene al cuore. Invece ho un gene che mi fa sentire dolce, un frutto importante che purtroppo da noi non c'è, che si trova in Australia e nel sud dell'Asia, il quale frutto ha delle proprietà antiossidanti, anticancro molto importanti, ma che la maggior parte delle persone a causa dei loro geni lo sentono amaro, quindi non lo possono. Di che frutto stiamo parlando? Così facciamo la prova, se lo sentiamo dolce anche noi vuol dire che non abbiamo il gene. Ma questo frutto si chiama bignai, viene da una pianta che adesso per la verità è in via di estinzione, ma la cosa simpatica è che appena abbiamo presentato questo istituto, una dottoressa in Italia, la dottoressa Gabriella Morini, mi ha contattato, lei ha pubblicato in Chemical Sense un bellissimo lavoro che fa vedere come questo frutto, qualcuno lo sente amaro, qualcuno lo sente dolce, e le ragioni genetiche di questo, perché noi abbiamo per esempio la possibilità di dimostrare come tantissimi degli alimenti che introduciamo modificano i nostri geni. Professore Muzzi, di quelli che noi abbiamo a disposizione, quali sono gli alimenti su cui c'è evidenza che promuovono la salute, la longevità, di quelli che compaiono sulle nostre tavole? Ma noi sappiamo per esempio come non so, la frutta e la verdura, certe frutte, certe verdure determinano l'aumento di geni che proteggono dai tumori. Il cavolo, per esempio, soprattutto il gambo, è importantissimo perché ha delle proprietà anticancro che assomigliano a quelle di certi farmaci anticancro, però lo scopo del nostro istituto è quello di capire quanti cavoli deve mangiare uno per arrivare ad avere quel vantaggio. Queste sono tutte cose che non è tanto facile conoscere. Ma noi siamo rassicurati dall'idea che c'è un istituto che adesso ha proprio questa mission, e quindi ricercare in modo scientifico gli alimenti che possono aiutarci a stare bene e a vivere a lungo, ma sani. Professor Remuzzi. Certo, pensi che per esempio c'era una persona quando abbiamo fatto l'inaugurazione che si occupa, un apicoltore che si occupa di tutti i vantaggi delle api. E senza api non si può fare niente di tutto questo, perché frutta e verdura dipendono dalle api, e quindi ci vuole più ricerca scientifica per promuovere anche questo tipo di attività. Certo. Sono tutte cose che non sono mai state affrontate in modo integrato. Noi abbiamo, non so, il resveratrolo, per ritornare alla sua domanda prima, che c'è un po' nel vino rosso, ma c'è soprattutto nel cioccolato, abbiamo il licopene che c'è nei pomodori, bisogna farli bollire, ci sono certi pomodori, varietà di pomodori a marzano che sono potenti nell'inibire l'angiogenesi, questi vasi che irrorano il cancro, e se tu li inibisci il cancro muore di fame, si diceva. Poi dopo è più complesso, perché non basta inibire soltanto quelli, però vogliamo arrivare a conoscere molto di più di tutti questi alimenti, e vogliamo fare quello che si fa. Il Mario Negri per esempio ha una forte tradizione nei geni che sono modificati dai farmaci anticancro, e quindi abbiamo delle reti neuronali, conosciamo le connessioni tra i vari geni, che cosa fa un determinato farmaco. Le sostanze chimiche contenute negli alimenti possono essere trattate allo stesso modo, con dei modelli matematici che si consentono di capire quali sono i loro effetti favorevoli su determinati assetti genetici, come si collegano tra loro, quali fanno di più, quali fanno di meno. Spostiamo la ricerca scientifica da tutto quello, non è che abbandoniamo i farmaci per carità, ma da tutto quello che abbiamo imparato sui farmaci lo trasferiamo sugli alimenti come se fossero farmaci. E poi questo ha un impatto molto forte sul pianeta. Ecco, sull'ambiente. Vengo proprio qua a sottolineare un aspetto, siamo in chiusura, ma mi piace sottolinearlo perché all'interno dell'istituto verranno sviluppati dei modelli di valutazione dell'impatto di sistemi alimentari sostenibili sul cambiamento climatico, ponendo particolare attenzione naturalmente alla preservazione dell'ambiente e della biodiversità, perché l'istituto ha proprio l'obiettivo di salvaguardare la salute dell'uomo mantenendo in buona salute anche il pianeta. Esatto, c'è un lavoro bellissimo per esempio appena pubblicato su Lancet che fa vedere per ciascun singolo alimento che cosa si consuma di suolo, che cosa si produce di CO2, che cosa si consuma di energia, qual è il potenziale di acidificazione degli oceani, le apparati di biodiversità, che è una cosa fondamentale, quanto fosforo viene generato dal mangiare un certo alimento piuttosto che un altro. Quindi quando tutti poi parlano di big data vuol dire mettere tutte queste cose insieme, creare addirittura delle app che possono aiutare le persone a sapere: io in questo momento mi comporto in questo modo, che cosa sto facendo al mio pianeta e cosa succederebbe se lo facessero tutti. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro e l'aspetto presto. E noi ci sentiamo prestissimo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per una bella diretta Facebook. Non mancate, buona giornata.